seriously. Just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free. To feed on the people they're supposed to lead. I don't need the people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now I do it right. Cause I don't want your daddy leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your soul away. Era Faithless con Mass Destruction. Perché ci siamo voluti andare giù duri, pesanti, e quindi siamo partiti col botto. Che chiaramente Michela è galvanizzata da questo ritorno in coppia, ma soprattutto anche dalla sua trasmissione mono, ma magari dopo ne parliamo anche. No, ma dalla mia trasmissione Michela De Paulas mono. Mono. Ah no, giusto. Mono. Bisogna dirlo come si dice. Mi è scappata la cosa un po'. Mi è scivolata un po'. Un po' suadente. Da una parte, insomma. Diciamo, questa trasmissione Everything è un mondo di pensare che sicuramente soltanto un po' così già vi deve riportare a. No, un mondo di menare, è un no, mondo di pensare. Un mondo di menare. Ah, ok. E il mondo di pensare che vi dovrebbe riportare un po' alle origini. E in effetti la nostra intenzione era un po' quella di ritornare alle origini, di ritornare a un nostro primo approccio con il podcasting, che in realtà è stato quello che poi alla fine ci ha fatto anche conoscere tanta gente, essere apprezzati, è ancora uno dei podcast più commentati probabilmente nella storia del podcast. Ogni giorno ci abbiamo mi piace su Facebook, è incredibile. Quello è una cosa anomala, che gente che capita così, ma secondo me sono anche fake, che sono tipo magari si va a vedere Svetlana con le zine dei fuori. Però bravo. Detto questo, dicevamo che torniamo alle origini, ossia praticamente al nostro primo podcast si chiamava Di Tutto Un Podcast, che di poi tutto era un podcast. Esatto, era Di Tutto Un Podcast, che però siccome che quando io ho fatto il blog digitando la famosa scimmia, esatto, di Simone Pizzi, esatto, scrivendo tutto di corsa, era uscito fuori Di Tutto Un Podcast, e a quel punto è diventata un po' una sorta di mantra, quasi il nostro modo di fare. E anche lì era Di Tutto Un Podcast, idee e opinioni nel nostro mondo. Yes. So, ci sono idee ed opinioni anche qui, del nostro Everything, mondo. Un mondo di pensare. Siamo un mondo di pensare, non di menare. Di menare, che è un autoplagio. Un mondo di menare sarebbe bellissimo, però io non. Insomma, lo farei un podcast. Il mondo di menare. I film di menare, ti ricordi? I famosi sì, film sì. di menare. Qui salutiamo Lille e Greg. Ma non era Rocco Smitherson che diceva i film di menare? No, erano latte e suoi derivati. Vabbè, insomma, in questo podcast, è tutto un podcast, noi che facevamo. Inizialmente raccontavamo un po' i cavoli nostri, insomma, che è quello che poi faremo probabilmente anche in questo podcast, perché ragazzi, da quando abbiamo smesso Di Tutto Un Podcast a oggi e sono passati 2 o 3 anni, forse anche di più. Sì, però tutti quanti vogliono sapere i cavoli nostri, quindi. Esatto, quindi ne sono successe, quindi a voi a raccontarci, avremo tutta la stagione. Vabbè, ma non gli interessa la gente, noi siamo diventati professionisti. Gli interessa perché sai che la gente vuole sapere dei matrimoni, soprattutto. Quanti matrimoni sei stata da quando è finito Di Tutto Un Podcast? Da quando è finito Di Tutto Un Podcast a oggi? Beh, già da durante Di Tutto Un Podcast a oggi io penso, oddio, non lo so, una ventina. La Madonna, 20 matrimoni. Ma dove sei stata? Cioè, non è che sono passati 20 anni. No, però forse una decina. Una decina. Non sai, 5, dai, al massimo. Ah, guarda, almeno 2 l'anno ci abbiamo avuti. Ma 2 all'anno? Io non sono venuto a nessuno, padre. No, tu no. Io non vado a nessuno. Sono andato solo agli ultimi 2 matrimoni perché erano 2 amici miei, ma perché mi ci ha portato lei. Costretto. Perché sennò io non ci sarei andato, ma non per loro che gli voglio bene, ma proprio perché il concetto di matrimonio in sé, al di fuori del mio, per me è un'aberrazione. Infatti c'è qualcuno che abbiamo saltato e che salutiamo con grande cuore proprio. Abbiamo Pietro. Fatto bene. Ah, beh, sì, certo, c'è stato uno che avremmo dovuto andare in effetti. E che penso che ha avuto anche delle conseguenze, perché da allora non ci ho più parlato. Insomma, no, non credo persona. Che sia presa però sappi bene. Pietro, che noi ti vogliamo bene. Sì, uguale, benissimo, ti vogliamo un gran bene. Quindi in Tutto Un Podcast noi parlavamo un po' dei cazzi nostri. Sì. Ma non soltanto, in realtà facevamo anche insomma argomenti, parlavamo di politica, di attualità, di associazioni, di iniziative. Parlavamo di tante cose. Parlavamo anche di Grillo quando ancora ci piaceva un pochettino. Beh, adesso non entriamo subito a farci no. dal 30% della popolazione. No, insomma, sono tranquilli. Però comunque sì, abbiamo parlato, abbiamo seguito gli albori della Rete Viola. Sì, la nascita della Rete Viola, che comunque gli esponenti della Rete Viola sono stati i nostri ospiti. Cioè, abbiamo avuto una puntata bellissima, fenomenale, che vi consiglio di scaricare se mai ci sono ancora le puntate. Ma non lo so se ci stanno ancora, devo dire. Sono sparite le puntate di tutto un podcast. Roba, soprattutto le puntate originali, quelle le prime stagioni, secondo me non si trovano. Perché la puntata sul nucleare ha fatto storia, è stata una puntata bellissima. Abbiamo intervistato uno scienziato importantissimo di cui non ricordo il dottor nome. Dottor Pasoso. Pasoso. Non lo so, è meglio no, che vabbè, non è bello che infatti fare questa cosa, perché cioè poi veramente è un eminente esimio professore che si è presentato e noi in questo momento non abbiamo il mio grandissimo professor Mariani, di proprietà mia, però insomma un famosissimo studioso della letteratura americana e Klingon, anglo-americana e Klingon e non solo, insomma, di tutte le lingue. Anche di Star Trek. Sì. E si è prestato comunque in una bellissima intervista sulla letteratura degli indiani d'America, quindi molto molto argomenti molto interessanti. Abbiamo alternato cavoli nostri con argomenti importanti, interessanti e anche molto molto godibili. Sì, che poi è stato un crescendo, se ci pensi, perché voglio dire, abbiamo iniziato con i cavoli nostri, abbiamo un po' continuato anche con i cavoli nostri, però i cavoli nostri alla fine venivano, diciamo, sostituiti più dalle nostre opinioni che dai cavoli nostri, che diventavano sempre meno. Invece crescevano poi gli interventi importanti. Abbiamo fatto veramente tante, al di là di quelle che ha detto Michele, abbiamo fatto veramente tante interviste interessanti, abbiamo conosciuto anche persone interessanti e abbiamo trattato argomenti importanti dallo come tsunami. Memoro, tu ricordi Memoro? Memoro, sì, che poi me lo ricordi Memoro, sempre. Memoro Momoro. No, Memoro, che esiste ancora, che è un sito, la banca della memoria, che è stata intervistata ultimamente, uno dei suoi esponenti è stato intervistato ultimamente in radio, in una radio nazionale, e quindi mi è tornato alla memoria per questo. Beh, comunque abbiamo parlato di tante cose, abbiamo conosciuto tanta gente, abbiamo parlato di viaggi, di viaggiatori, abbiamo parlato di tsunami, abbiamo parlato di terzo mondo, abbiamo parlato di nucleare, abbiamo parlato di scienze, attualità e cazzi e mazzi, e quindi a questo punto. Hai perso la festa del secolo perché avevi sonno. Quando l'Italia ha vinto i mondiali tu eri in bagno. Hai saputo che c'era il Black Friday solo quando è finito. Ma questo non te lo puoi perdere. Il momento è ora. Solo a gennaio Nissan Juke è tuo da 17.900 euro con eco incentivi più eco bonus rottamazione. Sbrigati. Info su nissan.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questo era di tutto un podcast e probabilmente, con tutta probabilità, questo sarà anche Everything, quindi ma insomma, speriamo di no, nel senso, ma no, ma sì, ma no, ma no, ma speriamo di no, perché comunque siamo cresciuti, già ci che siamo diciamo evoluti. No sì, no sì, è già di tutto un podcast, sì, giusto, comunque speriamo di no, perché ci siamo evoluti, siamo cresciuti e quindi gli approfondimenti ci saranno e le cavolate ci saranno, però comunque sarà tutto diverso, perché si cambia, si cresce. Ma sì, soprattutto non c'è più la musica Creative Commons, insomma. Ma quello è stato non è uno detto, dei non motivi è detto. Per cui insomma poi alla fine Michela era stata presa di mira come direttore artistico e cacciata via a malo modo, insomma, diciamo. No, vabbè, non è stata cacciata via in mano modo. Comunque andiamo con il secondo brano, mentre che Michela, come al solito, fa tutto tranne che... No, io sto qui. Ascoltiamo una bellissima canzone di Samuele Bersani. Quindi andiamo con le mie... Bellissima, perché... Bellissima. Samuele Bersani. Sì, bellissima, su cui bisognerebbe argomentare un po', perché comunque questa canzone è veramente attualissima. Si chiama Il Mostro. E diciamo che comunque io sono come Samuele Bersani, simpatizzo per il mostro, perché comunque ascoltando il testo capirete che alla fine forse siamo più mostri noi dei mostri veri. Ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro, pelosa gigante. L'unico esempio rimasto di mostro a sei zampe. Quanto mi piace vederlo passare, cosa farei per poterlo toccare?

che è la prima volta che è venuto, ha fatto un commento negativo e noi abbiamo detto: ah, questo sarà uno dei quelli che ci critica. Ah, ha detto che diciamo i cazzate, che facciamo schifo. Eh sì, può essere davvero, adesso è amico nostro, viene a casa nostra. Uno, esatto, è uno dei nostri amici, insomma, quindi vuol dire che poi alla fine anche grazie a questo si evolve, no? si evolve grazie a questo, e si evolve soprattutto grazie a un mondo che, dobbiamo dirlo, non è che ci hanno accolto così. Beh, io guarda, a ripensarci a posteriori, grazie, forse perché poi il mondo del podcasting sicuramente in qualche maniera è cambiato quando siamo, sì, arrivati noi, quindi alcune reazioni sono state anche, come posso dire, epidermiche, anche un po' conservative, reattive, controreattive, però secondo me anche noi, poi io ripensandoci un, sì, pochino, sì, sì, sì, dico sempre che poi alla fine la colpa, vero, avevamo una cifra alle palle, a parte il nano maledetto, che quello, vabbè, nano maledetto, sì, sì, e mandava le mail a uno, poi dopo te mandava pure a te, ti diceva, vabbè, quelle sono, no, storie, insomma, dai, sono come matrimoni, basta, esatto, basta, cioè nel senso che a un certo punto se metteremo lì le racconteremo vita naturale durante, sì, sì, anche, sì, perché gente come Caliendo vuole sapere parlare di matrimoni. Comunque alla fine questa evoluzione ha portato al fatto che a me mi ha preso la scimmia a un certo punto. Ha preso la scimmia, perché abbiamo... ho detto, io, noi facciamo bene i podcast, facciamone 50.000, sì, abbiamo comunque costruito una rete di amici e di amicizie che tuttora è praticamente quasi famiglia, nel senso che frequentiamo assiduamente, e comunque ha costruito tutta una diciamo così, un sottotesto di sottobosco, forse. Un sottobosco. Il testo, io non mi sento testo, tu sei testo. Le persone diventano testo con Michela, sì, Di Paola. Sì, mono. Sì. Mono. Mono. Vabbè, no, vabbè, sottobosco. Comunque, abbiamo approfondito molte amicizie e sono nati tanti tantissimi programmi. Alcuni per acquisizione. Sì. Tipo i Borg. Tipo ce li siamo accalappiati. Tipo la resistenza è inutile. No, abbiamo fatto Italian Podcast Network. Vado già troppo avanti. No, è lì. Siamo abbiamo lì. Creato Italian Podcast Network con le varie resistenze del mondo del podcast. Dobbiamo andare a rintuzzare. No, però comunque tante persone all'inizio ci guardavano un po' sospettosi. È stata un po' strana come, sì, cosa, perché noi in realtà ci siamo un po' fregati, perché l'idea era quella di creare un'aggregazione. Questa aggregazione in realtà all'inizio, alla fine, voleva essere... la stavamo per creare in un modo, in realtà poi l'abbiamo creata in un altro. Noi abbiamo detto: facciamo un network di podcast, ossia noi mettiamo la sovrastruttura e tutti i podcast si aggregano e ognuno c'ha il suo feed e c'è un feed generale, si fa una sorta di canale. E in realtà non è che è una cosa originalissima, perché mi sa che qualcosa già c'era simile, però nessuno poi in realtà ha veramente aderito a questa cosa. Allora noi, giustamente, che oramai siamo andati pure in puzza, a quel punto l'avevamo creata, a quel punto se gli altri non sono venuti, noi abbiamo creato 10.000 podcast. Sì, abbiamo creato podcast e abbiamo a go-go proprio, abbiamo, cioè, comunque portato dentro magari chi era veramente interessato, sì, magari dopo, sì, perché vedendo poi che magari l'esperimento funziona. Quindi abbiamo creato Archeologia e Videoludica, che è stato il primo programma, a parte di tutto un podcast, che poi ha aperto l'era di Italian Podcast. Abbiamo provato a creare Colibro, che era un progetto interessante. Sì, che però... probabilmente potremmo riprendere, magari con questo approccio che ho avuto adesso con Mono, insomma. Sì, anche con un po' più di dimestichezza. Sì, magari, con un po' più di esperienza. Anche se poi dopo raccontiamo anche il tuo periodo assente, no? Nel senso che comunque, però ci arriviamo dopo. Mono, Colibro, che era appunto questo interessante programma che lei faceva, quindi raccontava veramente una storia seguendo magari lo spunto di un libro e cercava di raccontare un po' tutto il background. Abbiamo fatto Fotogramma 24 con Michele Salvezza sul mitico cinema, mitico, bellissimo, il podcast più bello della storia del podcast, è stato un motivo, cioè nel senso ci ha portato, come Alex Raccuglia sa, che salutiamo, ci ha portato in un loop spazio-temporale una volta, perché in macchina. Ma sì, perché quanto è durato la puntata? È durata 3 ore, noi per 3 ore siamo rimasti in un loop spazio-tempo, non riusciamo più a uscire dal non so, ci abbiamo messo per arrivare alle cascate delle marmore, marmore ci vuole un'ora, ci abbiamo messo 3 ore, quindi insomma non si è capito bene. Comunque da lì in poi sono nati, vabbè, tantissimi altri podcast che bisognerebbe poi citare, Fuori Tempi con Paolo Perini, l'informazione, gli NGV, quindi praticamente il podcast, la collaborazione con un'importante collaborazione con l'Istituto di Geofisica e vulcanologia, esatto. Per cui abbiamo curato tutti i podcast sui vulcani. Vulcani e non solo, perché poi con l'associazione Free Rumble, con Free Rumble abbiamo fatto anche un altro podcast che si chiama Scienza Attualità, tutte cose, tutte esperienze, tutte che cose, in qualche maniera poi alla fine lo posso dire? Tutte cose gratis, tutte ma cose se gratis, voi lo cancelli questo è vero, ma però sono cose gratis che però poi alla fine ci hanno portato tanta esperienza, sì. Anche i programmi di Barbara Favaro stessa, sì. Quindi c'è, cioè, Pandora, certo. Colibro, che è stato Cubicolo, che è stato una follia, no? Nel senso, perché comunque era lì veramente sperimentazione, a vedere dove poteva... ha portato un grande successo. Ha portato successo, ma soprattutto ha portato esperienza. Noi durante questi anni di Italian Podcast Network, con tanti programmi che abbiamo fatto, mi dispiace magari non citarli tutti, perché però insomma abbiamo imparato cosa dovevamo fare e cosa non dovevamo fare, insomma. Poi io facciamo una cosa, un brano e poi magari dici tu la tua esperienza con Italian, sì, Podcast Network, che poi così poi vediamo. Okay. Quindi andiamo con il prossimo brano, che in questo momento Michela vi annuncia che gli si era spento il tablet, quindi insomma, che cos'è? Qual è il problema? Non si è acceso, quindi va bene, scusate ragazzi che... Vabbè, questo puoi cancellare. Questo no, non cancello niente. Ah, non cancelli niente. Non cancello niente. Allora, io direi che possiamo ascoltare i Sigur Rós, perché comunque i Sigur Rós ci stanno sempre, sono... ci hanno accompagnato per anni e anni della nostra vita durante la guerra del Vietnam. Ma che stai a dire? Non so. Manco erano nati nella guerra del Vietnam. Ma manco noi abbiamo nati. Ma forse tu. No, neanche tu. E ascoltiamo la bellissima Hoppy Polla. Thank you. Ma che bella canzone, proprio i brividi mi sono venuti. Direi proprio di sì, eh. Veramente, sì, sì, bisogna dire assolutamente di sì. Quindi, ritorniamo. Stavamo dicendo Italian Podcast Network, non vogliamo citare tutte quante le trasmissioni. Io penso, cioè, negli anni chi ci ha seguito lo sa, alla fine eravamo arrivati a quasi 17-20 trasmissioni, quindi insomma il lavoro che è stato fatto è stato veramente gigantesco. Prima di dire quello che poteva diventare Italian Podcast Network, quello che è stato anche per noi, ecco, forse più che cosa è stato per noi, perché per me e Michela ha coinciso con un periodo anche particolare della nostra vita, un periodo di evoluzione, un periodo che poi alla fine a te un po' ti ha portato lontano, no? Anche dal podcast, sì, certo. per ragioni insomma anche professionali, per tante cose insomma. E ciò nonostante, e questo è interessante, poi esprimi la tua, ad anni di distanza ancora la gente che seguiva comunque i nostri podcast allora ti ha sempre ricordato con affetto, e quindi alla fine ogni tanto ti arrivava il messaggino: ma quando torni? E quando noi con la pagina di Tutto un Podcast dicevamo mo torniamo, c'era sempre una reazione positiva. Poi abbiamo, sì, smesso di dirlo perché poi non riuscivamo mai a tornare. Quindi, però, insomma, ecco. La tua esperienza con Italian Podcast Network? Ma la mia esperienza con Italian Podcast Network è stata, vabbè, inizialmente purtroppo quasi nulla, perché alla fine, avendo deciso di intraprendere comunque un'attività propria, mi sono dedicata soprattutto a quello, e quindi negli ultimi 3 anni ho combattuto su quel fronte. Adesso che ultimamente e quindi diciamo l'ho visto da un po' più da spettatrice, ascoltavo i podcast che loro registravano, mi incontravo con gli amici, insomma, Luca, Michele, Carlo, Giuseppe. Saltuariamente partecipavi anche magari a qualche specifico episodio. Sì, sì, sì, sì, sì. E quindi diciamo è stata più da spettatrice, che poi ce l'avevo sempre dentro casa sta zanzara perché mo monta questo, mo senti quest'altro, mo mentre viaggiamo ascoltiamo Videoludica, poi ascoltiamo archeologia videoludica, che archeologia pazienza, informatica, insomma è stata abbastanza passiva come collaborazione la mia. Ma poi sono ritornata con Morte di Bestemmie e ho incontrato il mio vecchio pubblico, perché poi c'è una cosa, questa nuova gestione dei podcast, infatti io stasera sono molto amareggiata perché non posso fare la diretta. Per ora? Sì, questa sera mi è stato vietato di non fare la diretta perché se no eccetera eccetera, poi ve lo spiegherà lui. Cos'è eccetera eccetera? Se no eccetera eccetera. Comunque dicevo che il mio ritorno con gli speciali di Morti di Bestemmie e di Euroludica, e comunque le trasmissioni ti hanno fatto un po' gusto. Più vivaci e un po' più interattive, mi hanno fatto venire il gusto, mi hanno fatto comunque scoprire nuovi amici, perché comunque i vecchi amici mi hanno salutato con calore e affetto e quindi li ringrazio per questo. Ma soprattutto ho trovato nuovi amici, adesso c'è un Michela Fans Club che gira nell'etere. Al quale io non sono iscritto, sono stato espulso, proprio non posso assolutamente partecipare. Giusto, tu mi insulti. Beh, sempre. Tutte, nel senso che queste trasmissioni che abbiamo fatto in particolare quest'estate, quindi nella parte finale della scorsa stagione, poi ci arriviamo anche perché poi è il capitolo successivo. Comunque alla fine erano live, e i live in qualche maniera rendono sicuramente più frizzante il rapporto col pubblico, il rapporto proprio in generale. Quindi è chiaro, oggi noi stiamo facendo questa trasmissione così, che è programmata e non è live, questo è chiaro. Però dalla prossima puntata, dalla seconda puntata di Everythings, noi Everything, anzi no, perché senza noi ovviamente andremo in diretta quando stabiliamo un giorno, perché questa trasmissione va in onda, va in linea praticamente tutti i mercoledì mattina alle 10, Ok. No, tutti i mercoledì mattina. Un mercoledì mattina sì e uno no, scusate. Quindi ogni praticamente c'è una ogni due settimane, insomma. E quindi noi probabilmente andremo live il martedì sera, però è tutto da stabilire, lo stabiliremo quando l'avremo stabilito, così ci siamo organizzati anche con Michela gli impegni e i calendari che avremo, se sarà lunedì o se sarà martedì non lo sappiamo. E lo comunicheremo, faremo gli eventi e da lì in poi, insomma, ogni due il lunedì è mio, è di Mono, esatto, quindi il martedì è per everything. Quindi ogni lunedì, cioè ogni una settimana sì, una settimana no, noi usciremo con questo nostro programma, ritornando alla formula dei live, e poi ovviamente verrà poi trasmesso sulla radio come il palinsesto normale la mattina, quindi come replica, insomma. Lì anche potrete commentare se volete durante la trasmissione radio. Sì, esatto. Poi ricordamela questa cosa, perché dopo, verso la fine, diciamo anche le esperienze di questi ultimi due giorni. A questo punto ascoltiamo un altro brano. Sì, dico solo una cosa velocissima io, perché per me IPN comunque ha rappresentato veramente un grande progetto, alla fine anche una grande fatica, probabilmente forse sovramisurata anche, forse sottovalutata anche da me. Però è stato bello comunque il fatto di aver creato questa cosa, perché a me tutte le cose che creano cooperativismo, persone che lavorano insieme, robe genere, sono sempre piaciute. Michela lo sa, quindi è. Purtroppo dal cinema indipendente ai podcast è sempre stato così. Poi però a un certo punto tutte le cose arrivano a una loro impasse, a una non dico fine, però o evolvono oppure muoiono. Sì. E intanto, prima di proseguire col discorso, facciamo così, ascoltiamo un altro brano. Ascoltiamo la mitica Florence con Dog Days Are Over, e loro sono i Florence and the Machines. She hid around corners and she hid under beds. La sostanza è che alla fine, come dicevo, un progetto arriva a un punto a cui o evolve o arriva a questo impasse che può morire. Ma può morire anche perché quando un progetto come IPN è diventato veramente grandissimo, è retto solo da una piccola struttura, uno se lo per cazzo, giochiamolo. Ma hai fatto tutto da solo comunque. Esatto, nessuno io ci tengo a chiarirlo. Ma nessuno ha chiesto niente soprattutto. No, soprattutto te sei stufato, te sei animato, te sei... Però hai fatto tutto tu. Ho fatto tutto io, sì, è vero. E a un certo punto ho annunciato la conferenza... una sorta di conferenza finale, perché poi era un periodo in cui che non si è mai fatta. No, che non si è mai fatta, che io facevo ancora, gli facevo gli annui, i comunicati, come i dice comunicati, Luca, i famosi comunicati, salutiamo, esatto. Luca Casciola che pende dalle tue labbra, perché quando fai i prossimi comunicati, esatto. E allora, a questo punto appunto c'era questa cosa dei comunicati, avevo cercato di fare questa conferenza finale perché mi sembrava giusto per tutti coloro che avevano poi fatto questa esperienza fare una sorta di sunto finale di quello che era stata questa esperienza tutti quanti insieme, quello che ne avevamo tratto, quello che non avevamo tratto, ma fare anche una sorta di riassunto finale sui risultati, perché i risultati numerici che oggi noi qui non riportiamo perché basta, abbiamo detto mille volte, di un progetto come IPN per 5 anni sono stati straordinari, cioè per un podcast noi ovviamente facevamo un lavoro globale su tanti ma stavamo a parlare e qui cioè nel senso dati alla mano e anche stampati stiamo a parlare comunque di oltre 1 milione di download complessivi, quindi cioè, un risultato che se come dice Michela se ci avessero dato 50 centesimi per ogni insomma quantomeno saremmo comprati casa nuova, però no, ma ci bastava comprarci la macchina nuova un altro cioè nel senso almeno non rimetterci, esatto. La macchina però dove per poter ascoltare anche le web radio certo, sennò... una macchina con una digital radio, esatto. Però allora a quel punto io sono arrivato in questa fase di loop e ho detto ragazzi io chiudo tutto, cosa che in realtà è stata accolta con dispiacere generale, sì. Però mi ha fatto piacere perché in realtà non è stato dispiacere generale tipo ah no ma come no ma te prego, è stato ci dispiace veramente tanto ma lo capiamo perché cioè nel senso dai vedo che puoi dire qualcosa mono se vuoi ti dico mono e tu ti addolcisci non dici più niente. No, no, vabbè, diciamo che io stessa ti ho detto, ma che sei matto, con tutto che ogni volta magari, ma quanti salti spetti, ma di qua, ma di là, ma di sotto, di sopra, però comunque sono stata io la prima che ti ho detto, vabbè, ma mo che fai se chiude il podcast? Perché la paura fai? Di mia moglie che mi girava intorno e rompe i coglioni, ma in realtà non è così, perché poi ovviamente sono anche impegni, la famiglia, figli, lavoro e tutto quanto. Però noi abbiamo sempre un po' trovato una sorta di spazio, è vero che magari forse rispetto a tanti altri l'abbiamo un po' forzato il tempo, questo senza meno, però è vero pure che comunque è stato un lavoro che volevamo fare, abbiamo voluto fare, ho voluto fare, e via dicendo. Comunque IPN chiude, tutti dicono, mo che famo, ma quello è... Tutte le trasmissioni, soprattutto quelle a sfondo videoludico, che hanno fatto la puntata finale, no? Con lacrime e gioie, con gente che si disperava, diciamo, adesso cosa ci ascolteremo, roba del genere. A quel punto ho detto, vabbè, visto che mi telefonavano anche la notte, ho detto, no, faccio un solo podcast. Ma quando è che ti telefonavano anche la notte? Tu non lo sai perché ero da un'altra. Da un'altra? Questa sì, esatto. Adesso qui dovresti di cose no vabbè. Ma e quando sei mandato da un'altra? Ma che ne so sti ma così va. Tanto per dire e vabbè comunque ho detto ma quest'altra vabbè. Ti sopporta abbastanza? No, non che gli frega. Ah quella, no perché se no con 20 euro facciamo uno scam, madonna che brutte cose che dici sti fatti. No, a parte scherzi, ho detto vabbè facciamo un solo podcast. Un solo podcast di videogiochi, prendeva dall'esperienza di etologia videoludica con Peppe Saso e tutti gli altri e cerchiamo insomma di espandere questo concetto. Apriamo un solo canale per un solo podcast e ogni tanto facciamo anche qualche live. Abbiamo iniziato con quello, poi dopo alla fine però c'è questa cosa dentro di me, un po' de Napoleone. La forse, scimmia. Forse prende un po' da mio padre, perché io critico mio padre. De monkey, monkey, monkey, monkey, monkey, monkey, monkey. Ma a parte la monkey, cioè sta cosa de... Di agglobare, di inglobare. Infatti, i primi tempi, quando io. Perché il tuo padre, ultimamente, a sua detta, ha smesso di fare Dio. Esatto, quindi qualcuno deve prendere il suo posto. Esatto. E, E praticamente che è successo? Che quando Videoludica.it, che era il podcast, è diventato Videoludica.it Channel, inserendo l'occhio del Beholder all'interno, inserendo anche altre realtà dei videogiochi, e gente proprio come Alex Raccuglia mi dice: vabbè, ma se dovevamo fare il PN2, tanto vale, allora a quel punto. E in effetti il discorso era quello, ma in realtà io c'avevo un sogno nel cassetto. C'avevo un sogno nel cassetto che, diciamo, dopo. Che non era manco tanto segreto. Insomma. Che non, insomma, oramai si diceva da tempo, ma cioè, era un sogno che partiva già dai piedi. Era il sogno, lo diciamo dopo, okay, lasciava un po' di suspense. Di suspense. Lasciamo la suspense, sì. E ascoltiamo. In omaggio ad Alex Raccuglia, ascoltiamo una canzone di Cristina Donà e Samuel di Subsonica. Bellissima, che a me mi carica tantissimo, che si intitola Triathlon. So che un braccio dopo l'altro porterò a destinazione questo corpo calpestato dalle tue rigide mancanze. Ho attraversato giorni da diluvio universale. Ora so scivolare sull'acqua, è una questione orizzontale. Scivolerò sui tuoi rimpianti, ma i pianti con me. Scivolerò, ma il tuo amore donerà. E ritorniamo dunque in studio con Michela, con me c'è Michela, ciao Michela. Ciao Mono. Mano. Ok, e dopo ritorniamo e diciamo qual è il sogno del cassetto, che in realtà già mia moglie aveva capito, perché insomma io lo dicevo ogni tanto, ancora ai tempi ogni di ogni tanto, ogni tanto. Infatti oggi mi è arrivata una mail. Mi dico soltanto, scusa se ti interrompo, vai. La prima volta che siamo entrati nel nostro nuovo ufficio. L'ufficio è grande, molto grande, l'ufficio con diversi uffici dentro. La nostra agenzia, dove non ci farebbe male fare un po' di pubblicità. Certo, dato certo. Che sovvenzioniamo. Anzi, faremo anche uno spot proprio così a sbaffo. La nostra agenzia, che si chiama proprio Pizzi e De Paola Intermediazioni SAS, e si trova in Viale Mazzini 28, Monterotondo. Che schifo. Facciamo assicurazioni di tutti i rami, tutti i rami, e abbiamo dei prezzi imbattibili. Non tutto l'albero, solo i rami. tutti i rami: auto, persone, vita, anche cani, gatti, uccelli, pappagalli. Vabbè, comunque dai, torniamo alla cosa che volevi dire. Quando siamo entrati nella nuova agenzia, mentre la vecchia proprietaria ci faceva le magobbe, mio marito se ne è uscito, fa: qua ci faccia la radio. C'era un ufficio che è fatto apposta. Poi io ho fatto già vedere delle foto e poi le farò vedere ulteriormente, anche perché dove metteremo poi il server della web radio, che per ora è ancora temporaneamente qui. No, per forza, perché noi possiamo stare qui a cosà, insomma, questo deve far da sola. Vabbè, comunque, detto questo, il mio sogno era quello della web radio, e mia moglie era terrorizzata da sta cosa, perché chiaramente, dato che lo dicevo dai tempi di PN, anzi, in realtà stamattina mi è arrivata una mail da Gwenlan di All Games Italia, che salutiamo, All Games Italia, e salutiamo ciao, anche lei, chiedendomi, dice: vorremmo fare un articolo su Oggi, vorremmo capire qual è il rapporto tra videoludica e runtime. In realtà il rapporto di Runtime Radio, che è questa radio dove insomma ci state ascoltando in questo momento, il rapporto è con IPN, non è con videoludica. Videoludica è una sorta di transizione maldestra che abbiamo fatto, che in realtà sempre perché la scimmia, sì, esatto, perché in realtà cioè questa è più l'estrazione del progetto originale, cioè di creare aggregazione sotto forma di web radio. Visto e considerato che noi abbiamo, e questo visto e considerato sapete che è un mio vizio di fabbrica praticamente, cioè penso che siccome cioè, che siccome che, esatto, e abbiamo siccome praticamente che sta cecata, grande omaggio alla medica Anna Marchesini, che purtroppo è venuta a mancare, è andata, sì. E non mi ricordo più quello che stavo dicendo, ma comunque tutto si riassume nella scimmia. Nella scimmia, sì, no, perché questo è una sorta di diretta conseguenza appunto di quello che volevamo fare con IPN, perché poi a un certo punto ci siamo detti: ok, abbiamo ci fatto. Ci siamo detti chi? No, ci siamo detti tutti in generale, anche tu un pochino, perché poi in realtà te critichi, dici: ma qua e là i sordi, Però poi alla fine a te ti piace, perché tu mi vedi felice. No, io mi diverto. E poi tu, esatto. No, io mi diverto, sono contenta, sono felice. Però questo cavolo del progetto di raccolta fondi, ma quando lo fai? Adesso parte. Famo adesso la radio, famo qua, famo là, adesso, famo sotto, famo parte, sopra. Pure questo, parte tu pure questo. Non ti preoccupare che parte tutto. A mo ci arriviamo a questa cosa. Comunque il fatto che abbiamo fatto videoludica, anche se l'idea era quella di fare la web radio già da IPN, però avevamo un po' lasciato perdere. Però poi quando con videoludica, quindi col channel, abbiamo cominciato a fare dirette, e le dirette non erano più sui videogiochi, ma erano sugli europei di calcio, ma erano morti di bestemmie che imprecavamo contro i bimbi minchia o contro le bimbe minchia a 40 anni o comunque via dicendo. Poi sono cominciati a nascere i programmi di musica come Mono e Morti di Bestemmie Summer Radio e via dicendo. Alla fine ci siamo resi conto che era divertente fare i live. A quel punto, dato che tanto stiamo facendo questa cosa che è praticamente una simulazione della web radio che avremmo voluto fare, perché non facciamo la web radio? E a quel punto ci ha preso la botta da matti, e soprattutto anche a Michela, perché Michela comunque lì con i live si è divertita e ha capito che c'è una potenzialità, perché è divertente comunque fare le dirette e rispondere, interagire direttamente con la gente, che è poi vero, confermo, ma nel cuore, ma confermo, ha ragione. A quel punto noi abbiamo fatto nascere la web radio, e quindi ecco qua che è nata web radio, come questa web radio che si chiama appunto web radio, come si chiama, come si chiama, che si chiama Runtime, la web radio non solo geek. Perché non solo la radio non solo geek? Perché noi veniamo da IPN e quindi abbiamo un campo d'azione generale, dalla politica all'informazione, alla scienza, ai videogiochi, alla tecnologia, all'informatica, un po' tutto. Però veniamo anche da videoludica, che comunque era molto più, era un channel molto più specializzato. E comunque appunto i protagonisti principali della siamo web radio nerd, sì, sono tutti anche degli smanettoni un po'. Anche mia moglie è diventata un po' anche nerd, un po' strani. Nerd, io sono diventata nerd. Un po' nerd sei pure tu, dai. Ma quando? Un po' sì, dai. Oh, vabbè. Oh, my bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road, so they're getting sweeter. I got legs on my chairs and a head for a hair. Holding a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. In my car, I got most of the means and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy, and nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing that heart. Ascoltato il grandissimo Paolo Nutini con Pencil Full of Lead. Allora metti sempre le stesse canzoni, però. Ma che dici? Sempre le stesse, so, scusa, poi dice che te criticano. Ma le stesse di che cosa? Te criticano perché poi su Morti de Bestemmie è nato proprio un comitato dicendo non fate scegliere le canzoni a Michele. Sì, lo so, ma io li ignoro totalmente. Perché loro vogliono solo il metal. Ma poi, sì, ricordate che questa radio comunque c'è un'estrazione molto rock. Ma io comunque ci tenerei a fare un piccolo preambolo in questa. Facciamo un disclaimer. Un piccolo disclaimer in questa. C'ho paura di quello che sta per dire. So che sto per spezzare delle amicizie con questa cosa. No, quindi, vabbè, cioè, a parte te, che vabbè, sono famosa per le mie playlist e mi va bene così. Ma non è che io non ascolto la musica rock e la musica pesante, quindi cazzo, aspettatevi su Mono delle puntate incredibili. E quindi, a proposito di Mono, io direi di fare una bella disamina di tutti i programmi. Ma la storia l'abbiamo raccontata pure ai nipoti, pronipoti, quindi sì, basta. Eccoci qua, Runtime è nata e quindi adesso Runtime deve andare avanti. Di tutti i programmi. Allora, aspetta, volevo fare un preambolo. Intanto spieghiamo tutti i programmi che ci sono. Poi sicuramente ci sarà qualche programma nuovo che verrà a formarsi, quindi non è escluso che magari ci sarà una rubrica, sempre all'interno di Everything, in cui aggiorneremo sì, tutti gli ascoltatori sui programmi, perché noi siamo comunque la vetrina della radio, noi siamo la vetrina della radio. Brava, questa cosa mi è piaciuta, brava. Grazie. Brava, dopo ti do una nocciolina. Grazie. E quindi va bene così. Manchi, esatto. Allora, diciamo subito la prima cosa. Chiaramente questo è un progetto che nasce molto molto molto lentamente. Noi abbiamo collaborato, voglio dire, perché dato che Michela prima ha fatto le polemiche sue, ora le faccio io le polemiche. Noi abbiamo collaborato per alcuni mesi. Ma no, ma io non ho fatto le polemiche. Aspetta, vabbè, fammi dire, parentesi, io non ho fatto le polemiche. Io mi sono divertita tantissimo a fare arrabbiare tanta gente, perché poi alla fine sembro sembro buona, ma sono una stronza infame, insomma. Esatto, bello, infame soprattutto. E vabbè, noi abbiamo collaborato con una web radio che insomma facevano quelli che ce la sapevano, probabilmente per certi versi ce la sapevano perché erano comunque persone che già avevano lavorato all'interno magari di radio ufficiali, però alla fine noi abbiamo sempre, cioè noi da non radio avevamo 4-5 volte le trasmissioni che c'erano loro, che trasmettevano 24 ore su 24. Vabbè, ma loro fisicamente c'avevano una radio, quindi comunque sì, ma c'è solo quello c'avevano, perché comunque su 24 vabbè, ore c'avevano una trasmissione al giorno. Facevano però comunque serate, eventi e cose varie, quindi noi appena nati già abbiamo diverse trasmissioni nuove, sì, cioè però nate proprio non voglio difendere la radio che ci ha ospitato, però comunque è un modo diverso. Dobbiamo fare polemica a sbafo. Sì, ok, però è un modo diverso di vedere la radio. Cioè loro comunque si rivolgono a un pubblico eterogeneo, cioè loro comunque hanno i programmi di gossip, hanno i programmi. Abbiamo anche noi programmi eterogenei. Il problema, allora ragazzi, ognuno fa quello che gli pare, e questo siamo d'accordo. Io dico sempre che una cosa è mettere su una struttura tecnica e una cosa è avere i contenuti. I contenuti si creano con il tempo. Noi abbiamo acquisito esperienza e contenuti lavorando negli anni. Noi oramai questo siamo andati nel settimo anno e facciamo questa cosa, no? Quindi quello che voglio dire io è che noi tante volte siamo confrontati. Secondo me ci troviamo le gomme bucate. Le gomme bucate ce le troviamo sempre, perché Cottenza sa perché queste gomme sono sempre bucate. Quindi insomma anche questo rientra un po' nella questione dei cazzi nostri. Comunque, dicevo, alla fine noi ci siamo confrontati fra di noi e ci siamo detti: a che cosa ci serve a noi attualmente spendere soldi per fare un 24 ore al giorno di trasmissione? No, ma al momento non e è... mandare musica a rotta di collo a casaccio, poi, perché neanche di classificata, no, a casaccio, cioè da Mimmo Locasciulli agli heavy metal, cioè no, noi non ci serve assolutamente niente. No, infatti non facciamo. E infatti abbiamo massimizzato il discorso dicendo: ok, allora noi partiamo con 5 ore di streaming giornaliero per il mese d'ottobre, e poi dal mese di novembre oppure più in là, piano piano, fino a che non avremo acquisito anche un automatismo pure tecnicamente, piano piano aumenteremo le ore di trasmissione. Nel mentre che cominciano a rodarsi anche le trasmissioni, è in preparazione un progetto Eppela, perché voi sapete che Runtime sta per diventare un'associazione, e questa volta è vero, cioè nel senso, una volta pure lo dicevo pure coi PN questa cosa e poi non l'abbiamo mai fatta, ma sta per diventare un'associazione, proprio perché da adesso in poi noi abbiamo bisogno di una fiscalizzazione per il progetto Eppela, che comunque è un progetto che si basa su un'idea precisa di fare radio, e quindi anche economica, però comunque su un'idea precisa di fare radio, e quindi abbiamo bisogno di una fiscalizzazione. A quel punto, quando verrà presentato sul progetto Eppela, speriamo che tutti quelli che ci seguono, insomma sono già veramente tanti, mettano anche un pizzico, perché, la mano, insomma, al portafogli, mettete la mano al portafogli. Anche perché noi poi prenderemo le licenze, prenderemo tutta una serie di cose che chiaramente questa radio prenderà soltanto quando raggiungeremo determinati goal. Quindi non è un salto nel buio come molti magari hanno pensato e hanno detto: vabbè, ma che stai a fare? Stai a fare un investimento. Noi però non abbiamo investito niente, cioè nel senso che quello che era prima attualmente è quello che abbiamo oggi. Però abbiamo un progetto che, a seconda dei goal che raggiungeremo, poi ovviamente espanderemo se ci riusciamo, se no pazienza. Comunque, per ora noi abbiamo queste 5 ore al giorno che già un po' riempiamo, perché un po' le repliche dei podcast che ci avevamo prima. Buona voglia. Ma scusa, ma di tutto un podcast non c'è più negli archivi? Ma qualcosa c'è, sì. Ah, ok. Magari prima o poi vi trovate una bella puntata di tutto. Puntata non c'è bisogno, ma stiamo fare che te rifacendo. Beh, ho capito, però abbiamo fatto delle puntate storiche. Sarebbe bello, sì, è vero, però non so quanto ci siamo riusciti a... Perché c'è un problema tecnico. Le puntate di tutto un podcast stavano su Libsyn i primi tempi, negli albori. E quando noi abbiamo smesso di pagare Libsyn, io penso di non aver scaricato la roba che stava dentro. E questa è sempre la scimmia che c'è in te, comunque, vabbè. Magari Libsyn ancora ce l'ha, Libsyn, ridacce le puntate. La famosa storica puntata numero 0. Io adesso direi, abbiamo fatto una disamina attentissima su... Quanto sei attenta? Attentissima, sono lucidissima. Allora, una disamina attentissima su Runtime Radio, su che cosa è e che cosa rappresenta e come si evolverà, speriamo, nel tempo, soprattutto grazie alle vostre donazioni. Quindi mi raccomando, ragazzi, mani ai portafogli, perché qua finanziamo tutto noi. Ogni tanto gli amici ci aiutano e facciamo belle... Beh sì, per esempio quando si è rotto lo strumento con il quale, il dispositivo con il quale praticamente facevamo tutto. Sì, la facilità con cui abbiamo raccolto quei soldi per ricomprare lo strumento è stata... è stata incredibile, cioè... Se noi facessimo tutti i giorni così saremmo ricchissimi, ma noi non vogliamo diventare ricchissimi no, con la radio. Abbiamo bisogno del necessario e basta. Sì, vogliamo fare un po' come fanno alcuni nostri amici italiani. Volevo dire, vogliamo comunque mantenere viva questa radio e non rimetterci, ma neanche, cioè, ci rimettiamo volentieri, non è che, per carità, no, però insomma... Esatto. divertirci. Non è una questione con... di rimetterci, è una questione che diventando associazione poi noi dovremmo rimanere a pari, cioè nel senso divertirci e farvi divertire, esatto, in modo spensierato. Però insomma, voglio dire, non è che ci abbiamo, cioè nel senso, non deve essere una cambiale, insomma, questo no, non, no, dire, non, non ci facendo... metteremo lì a dirvi siete degli stronzi perché cioè, non come ci fanno, date i soldi, come fanno quelli, come anche io adesso se rinunciate al caffè per darmeli a me, porca troia. No, quello assolutamente no, non rinunciate a niente. Però magari se vi ritrovate qualche spiccetto in giro, sappiate che adesso le banche vi fanno versare anche gli spiccetti, quindi via, andate, versate, fate donazioni, piccole donazioni che comunque ci aiutano. Non ancora, perché ancora non è pronto, però insomma aspettate. Sì, quando le banche vi darà il via, noi scatenate l'inferno, sciogliete i massini della guerra, l'inferno, si dia inizio spiccetti alla distruzione, rompete tutti i salvatanai. Bene, andiamo in brano, poi parliamo sì. Allora parleremo delle trasmissioni che sono già in essere. Sì. abbiamo ascoltato il grande Pharrell Williams con Happy. Il farro? Farrell. Ho ascoltato il farro di William. Un grandissimo produttore oltre che musicista. Producer. È un produttore esecutivo. Un produttore musicale. Musicale esecutivo. Va bene. Famoso allora. In tutto il mondo. Amico di tutti e di tutti. Proprio di tutto e di tutti. Considerate che quello che stiamo per dire è ancora soggetto a variazioni, perché il palinsesto non solo è ancora in essere, ma in realtà ci è venuto in mente una cosa. Anzi, mi è venuta in mente una cosa, io senza condividerla con nessuno l'ho decisa, perché d'altronde io sono la mio padre ha smesso di fare Dio, qualcuno lo deve fare, insomma. Sì. Sappiate che adesso c'è un ruolo vacante di Dio. No, non c'è più il vacante, lo so io, quindi. Però qualcuno lo potrebbe anche spodestare. Poi lo so che sono i cavoli nostri, ma ve lo racconteremo questa cosa di mio padre, perché merita assolutamente di essere raccontata. Comunque, dicevo, ci saranno appunto delle variazioni, però già abbiamo deciso alcune cose, che la domenica sarà la domenica videoludica, ossia praticamente tutte le trasmissioni che parlano di videogiochi annessi e connessi andranno la domenica videoludica, che sarà una domenica al mese, se non erro, non vorrei dire una scemenza, ma la seconda domenica del mese è la domenica videoludica, dove prevalentemente andranno L'Occhio del Beholder e Videoludica, chiaramente, che sono i nostri programmi d'eccellenza, ma poi a rotazione andranno anche Passione Sound Design e anche altre questioni, insomma, relative sempre al mondo dei videogiochi. Abbiamo pensato il venerdì, tu lo sai che cosa c'è il venerdì? Non lo sai, non sei pronta. Eppure oggi ho condiviso il logo, l'hai visto, hai fatto pure mi piace, è una cosa nuova, c'è scritto runtime, dell'informazione, runtime della scienza. Quindi il venerdì diventa il venerdì della scienza, il giorno della scienza, dove praticamente sotto l'etichetta, chiamiamola così, runtime science. Fai così col braccio. Non si vedono, se faccio così, a mano a cucchiaio. Se tu lo fai, ti dà più slancio che quando sta lo al mercato, science, come dice. Capito? Sì. Ok. E faremo praticamente tra podcast vecchi, quindi NGV, Free Rumble e via dicendo, e anche nuove creazioni in arrivo che purtroppo non possiamo per ora confermarvi, per, insomma, anche per rispetto sono delle persone che si stanno elaborando, ma sapete, cose che hanno a che fare dal cibo all'astrofisica, insomma, quindi cose che potrebbero ma essere ci sta veramente... la giornata del magnà, non ci sta, non ragazzi, l'abbiamo ancora fatta, non c'è la giornata del magnare, quindi vi esortiamo a proporvi per un bel podcast, scusa, sul podcast magnà. non si dice più su trasmissione, per una bellissima trasmissione sul magnà, che se no possiamo fare pure noi, cioè noi sul magnà siamo esperti. No, noi dobbiamo fare la dieta, quindi ci deprimiamo. Ma tu vai poi sul magnà o sul cucinare, perché questo è importante. Ma un po' tutto, nel senso che possiamo fare una giornata culinaria, no? le giornate culo in aria anche. Una giornata culinaria in cui magari ci si alternano programmi di recensioni magari a alberghi e ristoranti, un po' come volevamo fare con Gordon Bleff, ma potremmo, che era geniale quel programma, potremmo io e Marco tornare a fare Gordon Bleff. Ma esatto, io ogni volta lo vorrei uccidere, però poi io voglio un bene dell'anima, quindi allora ragazzi, il lunedì c'è mono, ok, un lunedì mattina c'è mono, però potrebbe essere spostato mono. Perché il lunedì mattina in realtà c'è sta il programma di Carmine Console, che è un programma console, sulle vecchie console, Carmine Console, che è Sicuri di Corner, che alla è un programma... console, alla console, che è un programma sulla sicurezza informatica, ma poi si subentrerà anche Data Nightmare di Walter Vannini, che è un altro programma sull'informatica. Però vabbè, io direi non ti incastrare nei quindi giorni. Il lunedì potrebbe diventare il lunedì dell'informatica, ok? Quindi questa è un po' la questione. Quindi mono, però per ora, viene messo in seconda fascia, no, non viene messo fascia. Un altro giorno, perché quello poi vediamo. È messo un altro giorno, che okay. Schifo, mono. Poi ci abbiamo mono, ascoltate tutti mono. Poi abbiamo un altro programma che va il primo e il terzo, va soltanto il primo martedì di ogni mese. Io già mi sono scordata così, comunque io te lo volevo dire. Lo so, vabbè, ma poi pubblicheremo tutto, perché se andate sul sito comunque. Ma sentite, ma scusate, no, tu ma poi c'è il sito www.runtimeradio.it. Facci l'elenco di programmi. Allora, ok. Ma... quindi tanto Mono, estate sintonizzati Michela De Paola giorni, Mono dalle 9 a dalle 9 all'1, scusa, da che ora? Dalle 8 alle 13. Dalle 8 alle 13 tutti i giorni, e più o meno li beccate meglio tutti i programmi. Ed insomma, ascolterete questi programmi che adesso vi adesso, ok. Allora, Michela De Paola Mono, di che parla? Biografie tu, musicali, biografie musicali. Ogni puntata sarà oggetto praticamente di esame, di disamina, su un gruppo o su un cantante. Anzi, a questo proposito vi esorto, qualora lo vogliate, a propormi qualche musicista, cantante, qualche gruppo musicista. Danilo, gli Flames, ho capito. Vabbè, sì, basta, sì. Danilo, abbiamo capito. Ma non è che potevo fare, cioè, famo il giorno degli Flames. Poi abbiamo Security Corner di Carmine Console, che è un programma appunto sulla sicurezza informatica. Ogni settimana questo c'è, quindi ogni, sì, lunedì. Poi abbiamo il programma appunto di Walter Vannini, che si chiamerà Data Nightmare, che è un programma sull'uso consapevole della tecnologia. Questo è veramente importante ed è veramente interessante. Dura un quarto d'ora, anche questo ci sarà ogni settimana, ogni lunedì, quindi insomma non ve lo perdete. Abbiamo Rocket Balloon, che è praticamente il nuovo programma di approfondimento sui fumetti e robe nei dintorni, che va presumibilmente il martedì, e che è il nuovo programma a cura di Peppe Saso e Filippo Altroquando Messina, che sono insomma, Altroquando è un'associazione di Palermo legata a una libreria, a una fumetteria, insomma, quindi, cioè, se ascoltate la puntata pilota, insomma, vi racconta tutto la storia importante di questo nome di Altroquando. Il mercoledì per ora ci siamo noi con questo fantastico programma che Every Think. Ah, ok, no, non ci casca. E poi vabbè, ci sta Videoludica e L'Occhio del Beholder, e poi ci stanno i morti di bestemmie standard, che ritornerà la prossima settimana, e morti di bestemmie Summer Radio. E adesso io potrei anche, e c'è Barbara Favaro, c'è ovviamente c'è Vision Make Beauty di Barbara Favaro, che partirà anche questo la prossima settimana. Poi potrebbe tornare anche Pandora. Bisogna vedere, perché noi stiamo anche cercando di recuperare dai vecchi podcast le trasmissioni che sono più o meno trasmissibili, cioè che hanno una durata decente e che magari sono argomenti che non sono troppo datati. Quindi durante queste giornate, che noi ogni tanto sicuramente sentirete praticamente anche i vecchi podcast che vi interesseranno. Ritorna anche Archeologia Informatica con Sant'Agostino e Paganini, già dalla prossima settimana, quindi anche questo, insomma, è una cosa che sicuramente vi farà piacere, insomma, agli appassionati. Ma soprattutto su www.runtimeradio ogni scusa mattina... ma Videoludica l'hai nominata? Sì, okay. Insieme all'Occhio del Beholder, la mi sono persa. Stavo dicendo, su www.runtimeradio.it la mattina, quando partono le trasmissioni, e poi basta che vi collegate, quelle parte in automatico. Nel post praticamente c'è il player, e sotto il player indica praticamente tutto quello che andrà in onda nell'arco della giornata, già pronto, quindi c'è tutto il palinsesto della giornata, che la giornata, poi sapete, dura 5 ore, quindi insomma più o meno è saputo, no? Poi piano piano noi il palinsesto lo stiamo allestendo, ma anche sul sito metteremo il numero dei programmi, le biografie, i cazzi e mazzi, come abbiamo fatto adesso. Però per ora, insomma, le cose sono sul semplice andante. Sì, siamo un po' in fase di creazione. Very slow. Oppure pote pole. Pole pole, come dicono i miei grandissimi amici tanzaniani. Miei no, di mio padre. Negri, quindi c'è gli amici negri. Ma meglio invece amici negri che certi soggetti. Vabbè, lasciamo stare. Mamma mia, stavi per dire cose bruttissime, immagino. No. E poi comunque, poi sapete che mia moglie si è scoperta razzista ultimamente. Ma io non sono razzista. Ha fatto delle citazioni che mo adesso una l'ho già riportata e vabbè, l'altra me la sono scordata, però insomma. Ma assolutamente, io sono l'amica di tutti. Io opterei, voi sapete che noi siamo ma anche come persone, anche idealmente, ideologicamente, siamo persone estremamente aperte, ce la possiamo avere solo con una categoria in particolare, ma chi se ne frega. Però in realtà noi siamo amici di tutti, vogliamo bene tutti, e quando noi usiamo anche degli atteggiamenti dispregiativi lo facciamo veramente ironicamente. Sì. E quando mia moglie dice anche i froci invecchiano, insomma, è chiaro che lo dice scherzando, insomma. No, ma cioè, vabbè, a parte la parola che non si dovrebbe usare, che non è politicamente corretta. Ma noi non ce ne frega niente. Mi hai preso in castagna e mi hai messo proprio in vetrina, va bene. Cioè, io dicevo che comunque anche loro sono... Una volta si dorme sul divano. Sì, bravo. E anche loro invecchiano, cioè sono esseri umani, quindi invecchiano. E quindi invecchiano. Vabbè, andiamo al prossimo brano, anzi, il penultimo brano a questo punto. Il penultimo brano è un brano dei Pearl Jam. E è un brano da un album che io adoro tantissimo, ovvero Vitalogy. E è un brano che ha molto risentimento, ma anche molta energia. E ascoltiamo Better Man. Waiting, watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Till we're take no more, she practices her speeches. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in no time, can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red, can't find. È chiaro che il risentimento è palpabile in questo brano, cioè proprio mi sento risentito anche io un po'. Ma sì, perché non lui so parla... contro chi, però perché lui parla del ma invecchiano poi del padrino del suo patrigno del suo patrigno va quindi bene. Con una conferente con grande odio di gente che invecchia, insomma, quindi che è un po' così. Vabbè, comunque in linea massima per ora abbiamo detto un po' tutto, non so, insomma, forse sicuramente molte cose ci sfuggono. Volevo dire anche un'altra cosa, ma me la so chiaramente dimenticata, insomma, quindi Michela, aiutami. No, io direi che adesso bisogna ringraziare un po' tutti gli amici che si stanno dando da fare per dar vita a questo sogno, a questo progetto, e che comunque si stanno in qualche modo prodigando. Si stanno scoprendo anche presentatori, perché comunque alcuni di loro non hanno mai fatto un podcast, non hanno mai registrato e quindi si sono buttati nella mischia. Esatto. Ovviamente noi quando incontriamo qualcuno state alla larga da noi, perché noi come incontriamo vi diciamo "Vuoi fare il podcast?" "Vuoi fare il podcast?" "No, l'ha fatta amore." "L'ha fatta amore." È un po' così, insomma. E io dico sempre che la fine di mio marito sarà quella, insomma, andrà in giro per... Tanto le porte si aprono da sole. Andrà in giro per la città, fa radio. Perché poi, vabbè, ma anche questo bisognerebbe raccontare il contesto. Il contesto, perché insomma qui stiamo... cioè noi abitiamo a David Lynchland. Assolutamente, ma, no, poi, abitiamo, ma poi ne parleremo una volta. Abitiamo nel paese di Monte Rotondo, dove il sottotitolo è "David Lynch, ti sei inventato un cazzo". Ti sei inventato un cazzo, infatti è vero. Comunque voglio dire due cose, anche un po' salutando. Prima di tutto ringrazio Alex Raccuglia per molti assets, ma soprattutto per il logo originale di Runtime, perché comunque è un'opera sua. Ringrazio Carlo Burigana e tutti coloro che ogni tanto ci danno una mano anche da un punto di vista tecnico. Ringraziamo un particolare, una piccola parentesi. Io vorrei ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno mandato i disegnini. No, i disegnini. Grazie no. ai bambini che ci mandate i disegni. le registrazioni radio dei jingle. Assolutamente. Ma soprattutto ringraziamo Andrea Milana, perché sì. ci ha regalato dei jingle memorabili. Quindi anche la sua combriccola, ringraziamo. Andrea, Lisa, veramente io un giorno voglio venire a conoscere sta gente, quindi in un modo o nell'altro vi verrò presto a trovare. Si sono messi paura solo per il fatto che tu l'hai detto, insomma, una cosa del genere. Quindi... No, però comunque sì, ringraziamo anche Andrea Milana. Vi dico www.runtimeradio.it, dove trovate anche lì riferimenti alla nostra pagina Facebook, dove dovete andare tranquillamente a fare mi piace, soprattutto condividete i nostri banner, la nostra pubblicità. Io ho visto che c'è veramente un gran movimento dietro Runtime Radio in questi due giorni dalla nascita, e questo mi fa veramente piacere, perché vuol dire che un po' di interesse ce l'abbiamo. Anzi, il primo giorno addirittura botto d'ascolti, tipo record assoluto penso a livello mondiale globale. Sì, vabbè, ciao. No, vabbè, certo, è chiaro che non è così, però per noi sicuro, perché comunque una web radio, ricordate che insomma che più di X Play contemporanei non li fa. Noi abbiamo fatto veramente un numero assolutamente incredibile e siamo veramente contenti. E soprattutto la cosa bella è che nonostante che per ora i programmi non sono in diretta, sì, esatto, vi facciamo fare un corso di edizione. Scusate, ma c'è il gatto che cammina sulla cosa. Sì, quindi se consideriamo che i programmi non sono in diretta, anche se è live lo streaming, è bello il fatto che la gente comunque, perlomeno gli autori delle trasmissioni, in quel momento si fanno trovare spesso e volentieri nella chat, perché comunque gli ascoltatori passano e commentano, e questo è anche un po' fare social radio, quello che noi vorremmo fare, cioè comunque una radio basata sul dialogo anche con chi ci ascolta. Quindi diventeremo ricchi come Zuckerberg. Esatto, noi faremo il Facebook radio. E vai, vai. Yeah. Esatto. Ma ce l'ho già inventato con Spreaker? No. Spreaker, non so, chi è Spreaker? La Spreaker è quello che lo stiamo usando noi, Spreaker. Punto. Sì, ma non c'entra niente Spreaker. Infatti tramite il sistema di Spreaker noi ci piace questa idea di social radio. Comunque, detto questo, c'è anche il Twitter. Ci seguite sul Twitter, che è @runtime_radio. È proprio più facile, insomma, trovarci. Vabbè, se no cercate Runtime ci trovate. ma soprattutto c'è la mail, che è info@runtimeradio.it. dove potete tranquillamente mandarci le vostre proposte. A proposito, ringraziamo, ma a proposito di mail, è bello essere interrotti sempre, scusami, ma ci siamo dimenticati di ringraziare una persona importantissima, ovvero Carlo Sant'Agostino, che Carlo Sant'Agostino sempre, perché se non fosse per Carlo Sant'Agostino, se non fosse per lui non saremmo niente, tante cose non ci sarebbero e nessuno, che comunque ci ha praticamente posso dire, come no, donato dire gratuitamente il server su cui regge tutta Runtime Radio, giusto? Sì, no, ma soprattutto ha retto IPN per questi lunghi anni. Assolutamente. Quindi, insomma, vabbè. E comunque lui è sempre a disposizione, ma soprattutto è sempre una collaborazione tecnica fondamentale con la quale noi ovviamente non potremo sicuramente per il esistere. Quale comunque poi provvederemo a ripagarlo di tutta la... Con il bue, quando no, venderemo un bue e lo porteremo, che lui, se tu gli dai da magnà, è Carlo Sant'Agostino è contento, ma, vabbè, ma è come e noi. Noi su questo, esatto, siamo in perfetta sintonia. Diciamo quindi, che comunque lo metteremo nel piano di produzione, perché prima o poi deve essere pagato anche lui, quindi... Ma sì, qualche cosa bisognerà dargli, insomma. Ma comunque noi lo paghiamo in affetto, in sponsorizzazione, faremo gli spot per la sua azienda. Comunque, detto questo, dicevo, c'è la mail che è info@runtimeradio.it, dove potete scriverci, segnalarci idee, proporvi e soprattutto, se volete, mandare anche dei pilot per le vostre trasmissioni. Noi ve lo diciamo, saremo molto selettivi, però siamo comunque... Mazza quanto sei antipatico. Lo so, ma è giusto, non è che possiamo mandare... Che è brutta sta cosa che ho detto, però sì, insomma, infatti cancellala. No, non la cancello, non no, si cancella. No, cancella l'amore. Va bene, non si cancella. Cancella, comunque, basta con sta cosa di cancellare. Forse andiamo avanti. È come la cosa di menare. Esatto, la cosa di cancellare. Cioè, nel senso, saremo un po' selettivi, chiaramente, perché noi puntiamo comunque un minimo di standard. Però, insomma, le idee, le proposte sono ben accette. Comunque la radio ha bisogno di contenuti, noi ne stiamo tirando fuori tanti, ma sicuramente non riusciremo mai a riempire un po' tutto quanto. Detto questo, io direi, quanti brani ci abbiamo ancora? Ci abbiamo solo un brano. Solo un brano, allora ce l'ascoltiamo e poi ci salutiamo. Ci bene, facciamo una bella urlata con i Foo Fighters e ascoltiamo Best of You. I've got another confession to make. bene Michele, allora www.runtimeradio.it l'abbiamo detto, ci trovate anche su Spreaker, ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter, ci trovate ovunque volete. Io sono Simone Pizzi, lei è Michela De Paola. Io sono Michela De Paola. Esatto, e la trovate, senti, oh che grazia, io sono Michela De Paola. E molte sfondo. Molte sfondo. E questa è Everything. Quindi ci risentiamo. Everything. Sì. La cosa che sai di, insomma, non è che poi sa. Comunque, detto questo, ci risentiamo presto e inizieremo a parlare anche di argomenti interessanti. No, diciamo che dalla prossima puntata in poi saremo molto molto molto più incisivi. Avremo comunque i nostri argomenti, le e nostre soprattutto rubriche. Avremo una scaletta. Avremo una scaletta e soprattutto saremo live. In diretta. Ok, va bene. Saremo in diretta. Che non è la diretta, non è, ricordatevi ragazzi, le dirette delle trasmissioni non combaciano con la messa in onda della radio, quindi esatto, sono la rimanete sera. Aggiornati su Facebook, sui programmi che vi interessano per sapere quando saremo in diretta. Esattamente, quindi la radio trasmette dalle 8 alle 13 per ora in questo periodo, ma sapete che la sera dalle 21:30 in poi spesso e volentieri ci sono delle dirette dei programmi che poi vengono rimandati in differita il giorno dopo, due giorni dopo. Quindi detto questo, amore mio, andiamocene a dormire. Andiamo a dormire. Così sì. Prepariamo la scaletta della prossima puntata, dove parleremo anche lì dei cazzi nostri.